Storiacce di Raffaella Calandra. La reputazione è la traccia sociale che le nostre azioni lasciano sulle opinioni degli altri, sulle loro parole, sulle registrazioni. Che cos'è che rende questa immagine di noi che è negli occhi degli altri così difficile da gestire? È che è appunto nelle mani degli altri. Nelle mani degli altri. È un sentimento che credevamo purtroppo archiviato nei racconti d'altri tempi. Invece scopriamo che va solo relazionato a situazioni diverse, perché l'angoscia che la vergogna per una reputazione compromessa è in grado di trasmettere è oggi la stessa di ieri, o forse ancora peggiore ora, perché moltiplicata per tutti gli utenti dei social network per il tentativo di protezione della reputazione della figlia rispetto alla gente del paese. Una mamma calabrese cercò di insabbiare la violenza subita dalla tredicenne. Per la difesa fallita della sua reputazione, invece, una giovane donna napoletana si è stretta un foulard azzurro intorno al collo e si è lasciata andare. La difesa della reputazione può dunque anche uccidere, e quanto è più a rischio la nostra immagine sociale nell'era di foto condivise e amici virtuali? Da qui parte questa puntata di Storiacce tra sentimenti antichi e leggi nuove. Ridatene un po' di dignità, quella che ha sempre avuto in tutti quanti. Io sono la mamma. Una soltanto è la preghiera della mamma di Tiziana, che venga restituita dignità, dice, alla figlia. Che ora almeno la memoria venga ricomposta, la memoria di questa 31enne schiacciata dall'effetto di 6 video hard, di milioni di condivisioni, di una valanga di insulti, ma anche di una battaglia legale vinta non del tutto. All'interno di dinamiche private col suo ex che aveva registrato, Tiziana aveva condiviso filmati di sesso con amici virtuali, ora sotto accusa per diffamazione. Ma ben presto, nel passaggio da uno smartphone all'altro, quelle clip sono divenute virali e il corpo di Tiziana dato in pasto al ludibrio collettivo, compromettendo stavolta nelle piazze vere la sua immagine sociale. Ecco che allora Tiziana si toglie la vita, come Carolina, tredicenne suicida, per altri video hot, come provò a fare il protagonista dell'Avversario, romanzo di Manuel Carrer, quando quel castello di bugie in cui aveva costruito la sua alta reputazione, appunto, è crollato. Sentimento forte questo, divenuto sempre più cruciale della nostra epoca, riflette la filosofa Gloria Origi, che alla reputazione ha dedicato un libro. Non c'è un io che è tutto autentico, che è quello nostro, vero, e poi un'immagine sociale. Perdiamo il controllo dell'immagine che noi proiettiamo, perché l'immagine poi che proiettiamo ha una vita sua. Per esempio, l'immagine sociale che una giovane donna trasmette senza saperlo la porta al suicidio, perché appunto perde il controllo della sua immagine, di quello che gli altri fanno della sua identità. Senza avere l'idea di questi due però elementi, non si può capire spesso perché gli esseri umani agiscono in modo così estremo. Chi la porta a questa azione è questo suo secondo io, che è la storia che lei si racconta di sé, e in quella storia che lei si racconta di sé questa immagine non ci sta. Parto da una vicenda che sembra forse per certi versi una storia di altri tempi. Siamo in un paesino della Calabria, una ragazzina, una bambina di 13 anni viene stuprata a lungo da un gruppo di suoi coetanei. In qualche modo questa vicenda viene anche da lei stessa raccontata in un tema scolastico. La mamma lo vede, ma invece di, diciamo, di passare al contrattacco, cerca di insabbiare tutto, perché la preoccupazione principale è quello che il paese dirà. L'esempio che lei cita è un esempio in realtà molto classico. Le società erano basate sulla reputazione. Cosa gli altri diranno di me determina il mio riconoscimento sociale rispetto a un gruppo. Forse l'ha fatto per proteggerla, forse ha pensato che la sua reputazione fosse più importante, quindi la sua esistenza sociale, sempre il suo io sociale, fosse più importante che il suo io personale, che era proprio la carne violata. Si è tutti più fragili nella difesa della reputazione nel rapporto col social network. Noi ne perdiamo il controllo, perché le ragioni che noi abbiamo di trasmettere una traccia sociale, di farla circolare, e le ragioni che hanno gli altri poi di ritrasmetterla, di farla circolare, sono sempre differenti. Entriamo in una nuova era in cui dalla società dell'informazione stiamo passando a una società della reputazione, cioè dove tutto è giudicato e filtrato dagli occhi degli altri. Dobbiamo avere dei nuovi mezzi. Tiziana, 31 anni, come Carolina, 13, è come annegata nella vergogna provata davanti agli insulti della rete. Devono aver visto la loro vita del tutto distrutta, le due vittime, marchiate senza possibilità di recupero dall'infamia di quei video, a riprova di quanto fragile sia diventata nell'era in cui tutto si condivide con tutti la difesa della propria immagine sociale. Salvaguardare il buon nome era e forse è tuttora regola fondamentale della vita di provincia, ma salvaguardare la reputazione diventa priorità anche nella vita dei social, tanto più urgente quanto ancora non si ha fino in fondo consapevolezza delle conseguenze di un click sul web, un web inondato sempre più di immagini pornografiche, materia per una lunga sfilza di reati, come elenca il capo della divisione investigativa della Polizia Postale, Carlo Solimene. Il fenomeno della sex extortion in Europa è molto forte, per fortuna in Italia non ha questi dati così forti. Due persone che dialogano, una delle due che dopo un atto magari di autoerotismo fatto in chat chiede un'estorsione. Capita molto spesso che si tratta di immagini che vengono postate da ex. In qualche caso può essere il caso di un soggetto che, terminata una relazione, possa vendicarsi dell'altro. Possiamo avere minori che invece magari possono aver filmato degli incontri, possono averle pubblicate senza capire esattamente la gravità dei reati, e effettivamente molte volte magari la vendetta, la ripicca. Da un punto di vista normativo esistono ancora dei vuoti. Il vero problema è la viralizzazione dei filmati e delle foto. Tutto passa dunque dal rapporto con Facebook, YouTube e WhatsApp, ma quali strumenti hanno anche i magistrati italiani contro i giganti della rete? Con leggi diverse Tiziana avrebbe avuto più difese? Da qui ripartiamo nella seconda parte di Storiacce col magistrato che il Consiglio d'Europa ascolta per trattare con gli Stati Uniti. Good Tomlinson, good morning. Ça va, vous qui nous écoutez chez vous à la maison? Bonjour Julie. Bonjour. Aus antirassistische Netzwerk Sachsen-Anhalt. 24 mattino di Alessandro Milan. Ma dove eravate finiti? Il Parlamento è aperto ogni giorno dalle 6:30, caffè, brioche e giudizi in libertà. E alle 7:20 vi leggo i giornali gratis. Alessandro Milan, il boss dell'informazione. Oh, vi aspetto, è dal lunedì al venerdì, e siccome la carta costa, scopriremo anche l'articolo più inutile del giorno. Ma chi se ne frega! Storiacce. Questi leoni da tastiera, così come li ho definiti io, che utilizzano il mouse a mo' di pistola, dovrebbero avere delle pene esemplari. I social sono pericolosi. I social sono pericolosi. Sono pericolosi. Avranno davvero pene esemplari questi leoni da tastiera che hanno contribuito alla morte di Tiziana Cantone, come invoca il sindaco di Casalnuovo, suo paese d'origine? E poi, per legge, chi sono i responsabili? Solo quelli che hanno condiviso video privati o corresponsabili finiscono con essere i titolari delle piattaforme su cui quei video vengono pubblicati, e poi, a cascata, tutte le migliaia di utenti che hanno a loro volta scaricato, cliccato e condiviso? Questo è uno dei nodi cruciali nelle inchieste sui reati informatici, e questo è un fronte tuttora aperto nelle trattative tra Unione Europea e Stati Uniti, dove hanno sede la maggior parte dei giganti della rete. Tema peraltro che si pone anche in fatto di terrorismo, soprattutto per mezzi come WhatsApp e Telegram. Ai tavoli tecnici europei siede e consultato come uno dei massimi esperti dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione Francesco Cajani, PM di Milano del Dipartimento dei Reati Informatici, quello che mandò a processo Google. Che caso di cronaca riapre un po' una storia tutta nostra. Il caso di un video di un ragazzino down picchiato e sbeffeggiato sul web. Le domande sono sempre le stesse, ma la rete è già cambiata da 10 anni, e quindi ci sono domande che ancora oggi tragicamente si pongono di fronte a questi episodi. I cittadini in questi 10 anni hanno sempre avuto gli stessi strumenti e i problemi in gran parte sono rimasti gli stessi, quelli della responsabilità e a chi imputare questa responsabilità. La tecnologia è cambiata 1000 volte, mentre invece gli strumenti del diritto risalgono almeno a 10 anni fa in Italia? La legge, continuiamo a citare anche nel dibattito pubblico di questi giorni, legge sulla privacy, che ha una sua prima convenzione del Consiglio d'Europa che è del 1981. C'è un'evoluzione di strumenti legislativi che trovano poi un adeguamento nel decreto legislativo del 2003. Dal 2003 la rete internet è cambiata, ma la legge è sempre quella del 2003. Questa legge sull'oblio era applicabile nella vicenda di cui si sta parlando? La legge sulla privacy prevede il diritto di essere lasciato solo, di non avere rilievo a livello giornalistico. Il diritto all'oblio nasce quando invece non vi è un diritto di privacy, perché di fronte alla privacy ci può essere un contrapposto diritto alla conoscenza, al diritto di cronaca. Può soccombere la privacy di fronte al diritto di cronaca, ma dopo un certo periodo di tempo questo diritto può venire meno, quindi risorge il diritto di essere lasciato in pace. Tecnicamente abbiamo solamente una legge che riguarda il diritto alla riservatezza, non certo il diritto all'oblio. Il diritto all'oblio è frutto di un'evoluzione giurisprudenziale che ha avuto chiaramente poi un rilievo su internet nella famosa sentenza del caso Google Spain, e siamo nel 2014. Ci può essere interesse collettivo nella condivisione di immagini private, casomai anche pornografiche, come in questo caso? Il tema si è posto sia per la stampa ma anche sull'aspetto giudiziario. Certo che non c'è questo interesse. Io, nelle cose che invece mi hanno fatto meno male, è anche l'autocritica importante da parte dei media. Se noi ragioniamo in termini penalistici, mancava il consenso e quindi la norma di reato pienamente si profila. C'era un consenso alla diffusione ristretta di queste immagini, ma non alla loro ulteriore diffusione. Nella battaglia legale condotta da questa donna, si era visto, non fino in fondo, diciamo, riconosciuto questo suo diritto a scomparire, perché non era passato troppo tempo, scrive il giudice, per il venir meno dell'interesse collettivo. Il giudice scrive una cosa che è riportata dalla stampa, che io non ho avuto modo di leggere in tutta la sua estensione. Risposta diplomatica, ma esistono ancora dei vuoti normativi secondo lei? Ci sono delle leggi illuminanti. Il problema è che c'è una difficoltà a interpretarle in maniera adeguata ai tempi di oggi. Quindi forse la difficoltà sta anche nella formazione dei magistrati che devono avere a che fare con queste leggi. La difficoltà è di trovare delle interpretazioni autentiche che possono essere date o dalla Corte di Giustizia Europea, che peraltro nel caso Google Spain ha validato l'impostazione della Procura di Milano nonostante la nostra Cassazione ci avesse dato torto, ma è anche la necessità che il legislatore comunitario prenda in proprio carico il problema e riformuli la norma che non abbia più difficoltà di essere interpretata. Esiste forse una necessità anche di una specializzazione da parte dei magistrati su questa tipologia di reati? C'è stato un problema di specializzazione dei magistrati. Qui invece c'è un problema del sistema. È il sistema che è rimasto lo stesso da 10 anni. Cambiano i soggetti. Adesso Google all'epoca scriveva che per avere i dati bisognava fare una rogatoria. Adesso Google non lo dice più. Google collabora, Yahoo collabora. Adesso invece c'è WhatsApp che nelle indagini di terrorismo ci dice la stessa cosa. Hai bisogno di un dato? Mi dispiace, devi fare una rogatoria. E allora qui veniamo a quello che è un po' il tema di cui lei discute anche nei tavoli tecnici del Consiglio d'Europa e della Commissione Europea. Cioè il tema appunto del rapporto con le grandi aziende americane. L'Unione Europea sta lavorando per rinegoziare l'accordo di cooperazione con gli Stati Uniti. A che punto è? Da 2 anni si aspettava la soluzione giudiziaria di un caso che vedeva contrapposto il governo americano con Microsoft. Cosa servirebbe all'Europa perché ciascun magistrato possa avere più strumenti e quindi possa dare più tutele ai cittadini nel caso in cui ci si commettano dei reati sulla rete? servirebbe una legge o comunque un accordo di cooperazione tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti. L'Inghilterra è stata la prima a chiedere una rinegoziazione dei rapporti con gli Stati Uniti per avere un accesso diretto a questi dati. Adesso il problema è ancora più complicato, perché noi usiamo WhatsApp o usiamo Telegram. In America Telegram forse non sappiamo neanche dove andare a cercare. E infatti è il tema che si pone anche nelle inchieste sul terrorismo. È in discussione un disegno di legge sul cyberbullismo. Serve una nuova legge? Non entriamo allora nel merito di questo progetto. Ho letto sul giornale le preoccupazioni del padre di Carolina Picchio. Forse la legge serve per chiarire dei dubbi, serve per individuare responsabilità e regole. C'è ancora oggi un chiaro indicazione culturale di un internet che non deve essere regolamentata. Non è possibile che l'Unione Europea regolamenti, per esempio, in tutto e per tutto i giocattoli che utilizzano i nostri figli e si disinteressa completamente dell'applicazione dei sistemi di comunicazione che sono installati sui loro cellulari. Che cosa si fa anche nella, appunto, in Procura di Milano nella lotta ai reati informatici e anche nel rapporto, nella comunicazione con i cittadini? Abbiamo stretto un accordo con il Comune di Milano e con l'Ordine degli Avvocati di Milano, la formazione per la polizia giudiziaria e gli avvocati che tutelano la persona offesa, anche per evitare costi spropositati. Abbiamo pensato con il Comune di Milano di istituire un fondo per tutelare queste vittime. È un sistema che noi abbiamo presentato al Consiglio d'Europa per dire che è un sistema che può essere replicato in qualsiasi città d'Italia. A breve dovrebbe anche essere approvata dalla Camera la legge sul cyberbullismo, se il suo cammino non sarà interrotto. Concepita a protezione dei minori, è diventata nel passaggio dal Senato una norma rivolta a tutti. Ma sarebbe servita a Tiziana? Con questa nuova norma il meccanismo potrebbe ingolfarsi, è la preoccupazione in realtà di Elena Ferrara, PD, prima firmataria al Senato della DDL, anche perché professoressa di Carolina, studentessa suicida per video hard. Il disegno di legge era per la tutela dei ragazzi che si fanno male tra loro ad un'età sempre più bassa. La eliminazione dal testo nel passaggio dal Senato alla Camera di quella sottolineatura, cioè che la legge sul cyberbullismo persegue tutta una serie di reati in danno di minore, secondo lei sta indebolendo l'intera legge? Credo che bisogna lasciar finire il lavoro che la Camera ha comunque iniziato. Segnaliamo che lo spirito originario della legge era quello invece di essere puntuali sui minori. Se ci fosse stata la legge sul cyberbullismo, Tiziana avrebbe avuto qualche strumento in più? Lei la rimozione l'ha ottenuta comunque, forse ci sarebbero stati tempi magari più stringenti. Il che vuol dire meno tempo di esposizione anche al pubblico ludibrio. Se la segnalazione arriva da una persona adulta e molte persone adulte si ritengono offese, bisogna vedere se questo meccanismo continua a funzionare oppure è un meccanismo che si inceppa. Ecco, chi è che poi appunto valuta se quei video sono effettivamente lesivi dell'onore oppure no? Un adulto deve fare una denuncia e sarà un giudice che lo decide. Avevamo pensato invece che nel caso appunto di minori si potesse pensare che quel contenuto potesse anche essere valutato in prima istanza già dalla titolare del trattamento dei dati. C'è la libertà di espressione, c'è la libertà di informazione, c'è la valutazione di se un'immagine è violenta oppure no. Cioè lei capisce che lì si crea facilmente un cortocircuito. E cosa facciamo? Lo lasciamo alle aziende di depenare questo cortocircuito. I tribunali potrebbero essere sommersi. Dall'altra parte c'è il mondo del web che dice noi viviamo anche della libera espressione. Per gli adulti forse è possibile pensare a un provvedimento diverso. Una volta che facciamo una legge per i minori, per piacere teniamola su di loro, e sono loro che si stanno facendo molto male. La reputazione, valore cruciale anche per gli antichi. Linea dunque, come sempre a questo punto, a Giorgio Ieranò, professore all'Università di Trento, e alle nostre mitiche storiacce. Mitiche storiacce. Una volta gli antropologi parlavano di cultura della vergogna. Era in questa cultura, si diceva, che vivevano, per esempio, gli eroi di Omero. Per Achille non è importante sapere se quello che sta facendo è giusto o sbagliato. Quello che conta è quello che la gente pensa di lui. È la sua reputazione che conta. Gli antichi la chiamavano Timè, una parola che in greco significa onore, ma significa anche prezzo. Cioè tu vali per quanto gli altri ti valutano, per come gli altri ti valutano e ti vedono. E se l'eroe pensa che gli altri dicono male di lui, è pronto anche a uccidersi. Fedra, famosa eroina della mitologia greca, si uccide non perché si sente in colpa del fatto di essersi innamorata del suo figliastro, ma perché si vergogna del fatto che tutti hanno scoperto il suo amore. Aiace, un altro grande eroe, si uccide non perché si sente in colpa per aver cercato di ammazzare Agamennone, Ulisse e gli altri eroi greci, ma perché non c'è riuscito e gli altri ridono di lui. Lo stesso valeva anche per le divinità. C'è un episodio che racconta Omero quando il dio Efesto scopre che sua moglie Afrodite, la dea dell'amore, la Venere dei Romani, va a letto con il dio della guerra, Ares, cioè Marte per i Romani. Allora organizza una trappola per sorprenderli nel momento in cui fanno l'amore. Li imprigiona in una rete di ferro e chiama tutti gli dei a guardarli perché ridano di loro, perché li vedano mentre stanno facendo l'amore. C'è da giurare che se Efesto avesse avuto una videocamera l'avrebbe senz'altro usata in un'occasione come quella. E allora, che ne dicano gli antropologi e gli studiosi, in realtà nella civiltà della vergogna ci viviamo ancora anche noi. Secondo voi la nostra reputazione è davvero molto più a rischio nell'era dei social? Se vi va, scriveteci su Facebook alla pagina di Storiacce o su Twitter all'account Raf Calandra. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate, il sito è radio24.it. Ciao a tutti, a presto!